La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Siamo qui in diretta alle 16.30 primi e 21 secondi dagli studi di Milano. E vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vi dico subito di che cosa parliamo. È un aggiornamento dovuto, secondo me, in vista della scadenza che c'è domani per le due banche venete travagliate, cioè la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. È una scadenza alla luce di due fatti, e quindi nella trasmissione parleremo di questo con due ospiti. Naturalmente, se siete azionisti delle due banche e ci avete rimesso tutto quello che ci avete rimesso e più temete di perdere nel caso in cui non ci fosse l'autorizzazione europea, anche di questo parleremo ovviamente, all'aumento del capitale precauzionale con l'intervento dello Stato, chiamate pure e diteci come la pensate, 800 24 00 24. E i due fatti quali sono? Sapete che le due banche avevano proposto un ristoro agli azionisti, i liquidi, il cui prezzo era fissato dalle banche stesse, ne abbiamo parlato mille volte, con procedure non solo discutibili ma rivelatesi infondate, e a quel punto gli azionisti hanno visto titoli il cui valore si è praticamente azzerato. Detto tutto questo, le banche proponevano, proprio ai fini di proseguire nell'operazione di fusione tra Vicenza e Veneto e con un aumento di capitale che però tenesse conto della necessità di abbattere il contenzioso per fronteggiare il quale altrimenti, cioè per fronteggiare il contenzioso degli ex azionisti che ricorressero ai tribunali per dire siamo stati raggirati rispetto a questo prezzo fissato e tenuto per anni dalla banca a un valore rivelatosi poi infondato, ecco, per abbattere il contenzioso le due banche avevano proposto agli azionisti un ristoro pari a poco meno del 15%. Avevano indicato una data la settimana scorsa perché questo ristoro fosse accolto da almeno il 75-80% degli azionisti. Hanno dovuto protrarre il termine a domani, e quindi domani si dovrebbe vedere se è stato raggiunto il tetto, la soglia di almeno il 70%. Gli ultimi dati parlavano di un accoglimento favorevole da parte del 67-68% degli azionisti, quindi prossimo a raggiungere il tetto del 70%. Però sono intervenuti due fatti. Il primo è una sentenza, e questa sentenza ha dato ragione, è stato il Tribunale Civile di Verona che ha condannato la Popolare di Vicenza a indennizzare per intero, per la somma di 40.000 euro, una piccola socia, una signora anziana, che in ricorso al Tribunale e ha detto io sono stata raggirata, e il Tribunale ha riconosciuto il pieno indennizzo a questa socia della Popolare di Vicenza sulla base del fatto che il pacchetto di azioni era stato venduto alla signora in violazione delle regole della MiFID, cioè non tenendo conto del suo profilo di rischio che era basso rispetto all'acquisto di questo titolo illiquido e alla consistenza non diversificata del suo portafoglio. Questo in realtà è avvenuto per migliaia e migliaia, stiamo parlando di più di 200.000 soci sommando Veneto Banca e Vicenza, e il problema quindi posto da questa sentenza è: ma se la sentenza costituisce un precedente per tutti coloro che non erano stati profilati nella diversificazione di portafoglio e sul totale del loro patrimonio, sul profilo di rischio personale, questa sentenza costituisce un precedente tale da spingere gli azionisti che non hanno ancora accolto il ristoro a dire preferisco impugnare di fronte al giudice? Prima domanda. Secondo fatto nuovo, questa mattina conferenza stampa di colei che ha la testa della vigilanza europea all'interno del BCE, cioè Daniel Nui, che ha richiesta di una valutazione dello stato delle cose rispetto a Siena, le due banche venete, ha detto per Siena è solvente da tutto quello che abbiamo appurato, quindi ok all'aumento di capitale precauzionale con intervento dello Stato, secondo quello che prevede la direttiva BRRD, quella europea sulla risoluzione delle banche. Sulle due venete ha aggiunto: lì siamo ancora un po' indietro con il negoziato. Per le due venete non si deve solo pronunciare la vigilanza della BCE, ma è aperto un confronto con la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, la quale deve accertarsi che i piani industriali delle due banche, in vista anche della loro fusione, siano formulati con un cuscino di capitale tale da assorbire tutte le eventuali perdite ulteriori, non solo da contenzioso, ma anche da una valutazione aggiornata della copertura dei crediti deteriorati, perché l'intervento dello Stato nell'aumento di capitale precauzionale non configuri aiuti di Stato. Perché lo Stato non deve avere perdite nell'aumento precauzionale, deve rientrare poi di tutti i suoi capitali che devono essere concessi agli istituti, che devono essere quindi solventi in modi di mercato. Questo pretendono le regole europee. E quindi Daniel Nui ha detto: questa questione per le due banche venete è ancora aperta. Io mi permetto di dire che è aggiunto l'ultima parola sugli aiuti di Stato spetta alla Commissione, non alla BCE. Vediamo, ma insomma la questione è ancora aperta. Ovviamente questa valutazione di Daniel Nui aggiunge un altro elemento rispetto al primo, cioè alla sentenza. Perché nel caso in cui, dicono le indiscrezioni, soprattutto una delle due banche venete dovesse non essere in condizioni di avere capitali sufficienti ad assorbire tutte le ulteriori perdite e dovesse, per pura ipotesi, a quel punto andare in bail-in, beh, certo, la sentenza potrà costituire un precedente, ma a quel punto non c'è più la banca a cui chiedere i soldi, per così dire. O meglio, ce n'è una che andrebbe incontro alla necessità di separare una banca buona da una cattiva. Allora, queste due cose tenteremo oggi di fare qualche riflessione per gli azionisti che non avessero ancora esercitato la loro facoltà o meno di dire sì al ristoro proposto dalle due venete, perché il momento è, come si suol dire, un po' topico. Allora, per capire meglio due ospiti, il primo è già stato diverse volte ai nostri microfoni, è Maurizio Crema, caporedattore economico del Gazzettino e che quindi segue da anni tutte queste vicende, autore di un libro di cui abbiamo più volte parlato, Banche Rotte, i giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, di cui vi consiglio la lettura, come ve l'ho consigliata sabato ai Conti della Belva, di un libro che è appena fresco fresco di stampa, anzi va domani nelle librerie. Gli autori sono Andrea Greco e Franco Vanni di Repubblica, e si intitola Banche Impopolari, è uscito per la collana Le Frecce di Mondadori, anch'esso da leggere assolutamente, secondo me. E il secondo ospite è Piero Cecchinato, avvocato esperto di diritto bancario. Allora, innanzitutto buon pomeriggio e grazie Maurizio Crema. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. E buon pomeriggio grazie all'avvocato Cecchinato. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Allora, Maurizio, innanzitutto questa notizia come è stata accolta e commentata dal complesso dell'informazione veneta rivolgendosi agli azionisti? Pura notizia di cronaca oppure qualcuno ha commentato dicendo beh, qualche elemento di riflessione per chi non avesse accettato il ristoro c'è? Sicuramente, apre uno spiraglio. Il problema è che siamo alla fine dell'offerta di ristoro, no? Quindi si chiuderà domani, c'è stata doveva già chiudersi la scorsa settimana, poi è stato dato un po', qualche giorno di proroga. L'obiettivo delle due banche è quello di arrivare oltre il 70% di adesioni, ma adesso qualcuno si interroga: faccio bene ad aderire? C'è la possibilità invece di avere il risarcimento in toto? E anche le banche che credo che si interroghino, a partire poi dall'idea che credo che Popolare Vicenza cercherà di fare ricorso sicuramente alla sentenza del Tribunale di Verona, del Tribunale Civile. Sì. Diciamo che la partita si sta per chiudere, ma con qualche sorpresa e con qualche gol all'ultimo minuto, adesso non so come lo possiamo chiamare. No? Di che senso? Perché secondo me adesso qualcuno potrebbe anche ripensarci, no? Qualcuno di quelli che doveva aderire in questi ultimissimi giorni che aveva preso l'onda, a questo punto può cominciare a pensare qualche carta in più da giocarmi in tribunale, ce l'ho, soprattutto se le associazioni dei consumatori iniziano a sviluppare questo tema con maggiore incisività e si fanno forti di questa sentenza. Per completezza di informazione, il ricorso della piccola azionista, la signora che ha chiesto al Tribunale Civile di Verona di pronunciarsi per il suo indennizzo ottenendolo pieno, è stato patrocinato dall'Abuslef, per capirci, l'associazione dei consumatori, quella di Lannuti, che è una delle più attive su questo. Battagliere ha fatto anche un appello a Lannuti questo fine settimana, dicendo: azionisti delle due venete, ha detto testualmente sulle agenzie, ho visto sulla schiena, rifiutate i quattro soldi, il piatto di lenticchie che vi viene offerto. Certo, il rischio però è di non ottenere neanche nulla. Quelli, questo è il punto, perché anche le parole di Daniel Nui oggi non è che dicano è tutto a posto per l'aumento precauzionale. Assolutamente no, tu lo sai meglio di me, è una questione che è in ballo da un po' di tempo. L'intervento di Atlanta, che doveva essere il grande salvataggio, non è bastato, adesso dovrà intervenire lo Stato, il governo spera di intervenire in minoranza per rintuzzare le eventuali critiche e obiezioni da parte della Commissione europea. La DG Competition sta diventando lo spauracchio di tutti i banchieri coinvolti in questa operazione. Credo anche che lo stesso amministratore delegato di Vicenza, Viola, abbia un attimo cominciato a pensare di essersi infilato in un ginepraio. Adesso speriamo che si possa risolvere. Certo è che queste sentenze non sgombrano il campo, diciamo così, non riportano il sereno. Quel sereno che invece doveva arrivare con l'adesione dei soci massiccia. E c'è stata comunque, perché secondo me il 70%. È tantissimo, cioè arrivare a 67-68, io stesso un mese fa avrei detto buh. Però, avvocato Cecchinato, ci fa capire un secondo, visti i tempi della giustizia, perché come dice Maurizio Crema, in effetti la Procura di Vicenza andrà fino in Cassazione. Se uno non avesse presentato, diciamo, in maniera tale da avere almeno un primo grado di giudizio a favore, come è capitata all'azionista di cui stiamo parlando, di cui il Tribunale Civile di Verona gli ha ordinato alla banca il pieno ristoro, adesso i tempi della giustizia, se nel frattempo non ci fosse l'ok all'aumento precauzionale, cioè se alla luce della valutazione fatta dalla banca della percentuale di coloro che accettano il ristoro, le banche non avessero il cuscino di capitale aggiuntivo necessario a fronteggiare il contenzioso, 1, 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, 1 miliardo e mezzo, banche non sono ricche di capitale aggiuntivo, se no non farebbero precauzionale. Atlante ha reso noto ieri che ci tiene, come diceva Maurizio Crema, a non scendere in minoranza nel controllo delle due banche fuse, e quindi significa che bisogna tentare di limitare l'ammontare dell'aumento di capitale, non di largheggiare. Ma in quel caso i tempi lunghi della giustizia rispetto a quello che avviene dalle banche, l'avvocato che cosa dice ai clienti delle banche che non hanno ancora aderito al ristoro? Meglio aderire per prudenza o meglio invece trarre esempio dalla sentenza di Verona? È una domanda facile. Lo dico così con la battuta, perché effettivamente noi come consulenti per la prima volta ci troviamo a fare i conti con un'incognita che è un po' un'incognita nuova, nel senso che quando gli anni scorsi si valutava con il cliente la possibilità di avanzare una causa risarcitoria nei confronti della banca, l'assolvibilità del nostro debitore non era un'incognita. Non era in discussione. Non è una discussione, la banca a qualche tempo fa insomma era considerato fra i debitori più solvibili. Oggi devo dire, e questa cosa non ci rende molto più difficile il nostro lavoro, perché non è possibile sapere ovviamente come, in particolare con le popolari venete, non è possibile sapere come andrà a finire. Questo sì, rende ogni volta, rende necessario soppesare anche questa incognita con il cliente, quindi nel momento in cui si fa una valutazione sullo stato della pratica, si fa una valutazione sullo stato dei documenti, una valutazione che noi potremmo definire di fattibilità di un'azione, è anche giusto che il cliente venga avvisato di questa potenziale, di questo potenziale rischio, cioè il rischio che alla fine una sentenza vittoriosa possa non essere utile. E va detto che la sentenza di Verona, sulla quale poi se vuole spendiamo anche due o tre parole, la sentenza di Verona è arrivata comunque nel giro di 2 anni. Oggi i tempi della giustizia, va detto anche questo, almeno qui nei tribunali del nord si vanno veramente velocizzando. Io personalmente cerco di portare i clienti di fronte a un organismo che è stato istituito il 9 gennaio di quest'anno, che si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie, un organismo che non esisteva prima, esisteva solamente per i rapporti di credito, mutui, leasing, contestazioni sui conti correnti, e che oggi invece esiste anche per i rapporti di investimento e che assicura dei tempi molto più spediti di risoluzione della questione. Va anche detto che l'arbitro per le controversie finanziarie è competente per gli investimenti al di sotto dei 500.000 euro. Proprio per ovviare un po' a questa incognita che è la lungaggine del processo rispetto allo stato di salute della banca, questa diventa un po' una soluzione di compromesso. Però ovvio che noi siamo un po' a disagio perché abbiamo a che fare con questa incognita che gli altri anni in passato non era soppesata assolutamente, cioè l'incognita della solvibilità del nostro debitore. Certo. Domanda di un ascoltatore: ma l'arbitro entra nel merito della pratica attraverso la quale il cliente ha acquisito le azioni rispetto a ciò che prevedeva la MiFID, cioè perfilazione complessiva del patrimonio dell'acquirente e diversificazione? Assolutamente sì. Allora, l'arbitro per le controversie finanziarie giudica esattamente come un tribunale ordinario e emette una decisione. La particolarità mette una decisione alla luce della normativa vigente che dà ragione o dà torto al risparmiatore. Va detto, c'è una particolarità però: questa decisione non è vincolante, nel senso che lascia entrambe le parti libere poi di adire il tribunale ordinario. Va anche detto però che qualora l'intermediario o la banca venissero condannate, questa decisione di condanna viene inserita in una sezione apposita del sito internet, cioè le viene dato rilievo in pubblicità, e l'eventuale mancata ottemperanza, il mancato adempimento da parte della banca alla sentenza, alla decisione di condanna, viene specificamente segnalato. Nel cugino di questo organismo, l'arbitro ABF, l'arbitro bancario e finanziario, che invece esiste da molti anni per i rapporti, come dicevamo prima, di credito. A dati al 2016, la percentuale di mancato temperamento da parte delle banche alle decisioni era inferiore all'1%. Per cui comunque capite che diventa una strada comunque favorevole, diventa una strada utile da perseguire, è una strada che lascia anche più spazio poi alle parti per trovare un accordo qualora la decisione dovesse essere negativa, nel senso che la banca potrebbe dire: vabbè, io rinuncio a portarti in causa, però sediamoci al tavolo, visto che ho una prima decisione sfavorevole, e proviamo a trovare un accordo soddisfacente. Allora, un minuto di informazione sul traffico e poi torniamo con l'avvocato Pietro Cecchinato e con Maurizio Crema, caporedattore economico del Gazzettino. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, rispondo ai nostri ascoltatori, alcuni di loro. Primo, non parlo mai degli abbonamenti del Sole Eritrea. No, ne ho parlato più volte e figuratevi, ripeto, distinguete i giornalisti, non tanto me che sono collaboratore serio, giornalisti del gruppo, dalla responsabilità di chi ha guidato questo gruppo, di chi ha guidato questo giornale, dell'azionista che per anni e anni sostiene adesso di non aver capito che cosa avveniva nell'azienda. Mi auguro al più presto l'aumento di capitale necessario, visto che ci hanno perso piccoli risparmiatori. È stato un aumento di capitale, è stata una collocazione in borsa per risparmio retail e non per gli investitori istituzionali come avrebbe dovuto essere. Quindi perdonatemi, ma sono completamente d'accordo con chi tra voi non solo si gratta la testa, ma tira giù anche, come si vede negli SMS, qualche improperio, perché da questo punto di vista c'è poco da fare. Da me non sentirete certo difese o minimizzazioni, per niente, nel senso che questa è una crisi di gravità che colpisce innanzitutto l'azionista, Confindustria, e che leva credibilità. La credibilità di ciascuno di noi nel fare questo mestiere nasce dalla credibilità del tetto che ha sulla testa. L'ho detto, l'ho ripetuto, lo ripeterò tutte le volte che mi chiedete come la penso, e quindi c'è poco da minimizzare. Detto questo, un ascoltatore avvocato Cecchinato ci dice: io ho letto la sentenza di Verona, però lì, e quindi siccome l'ha letta anche lei, vediamo se il nostro ascoltatore ha ragione, dice lì la signora aveva effettivamente signori titoli da vantare, perché proprio non gliel'avevano neanche sfogliata la MIFID, per così dire, è così? Allora, la sentenza dice che alla signora avevano sottoposto il questionario finanziario per valutare la sua pregressa esperienza in investimento e la sua propensione al rischio. Senza entrare eccessivamente in tecnicismi, la sentenza dice che la banca era tenuta a effettuare la valutazione di appropriatezza di questo tipo di investimento, quindi investimento in azioni della Banca Popolare di Vicenza, rispetto al suo al questionario finanziario da lei rilasciato. La banca ha l'obbligo di effettuare due livelli di valutazione, un livello che si chiama di adeguatezza, rispetto al quale la banca è tenuta a verificare la conformità del investimento in relazione alla propensione al rischio dell'obiettivo di investimento del cliente, e invece una valutazione di secondo livello, detta di appropriatezza, rispetto alla quale la banca si limita a effettuare una valutazione di conformità dell'investimento alla luce della sua sola pregressa esperienza. Nel caso di specie è emerso in causa che la banca non aveva fornito un servizio di consulenza, e quindi questo per legge esentava la banca dall'effettuare una valutazione di adeguatezza, quindi di conformità dell'investimento rispetto alla sua propensione al rischio, che era sicuramente bassa, per effetto di una negoziazione che si chiama mera negoziazione di ordini, quindi possiamo ritenere che alla luce della documentazione bancaria scambiata in causa sia quantomeno sembrato, sia parso che fosse stata la cliente a richiedere questo tipo di investimento. Quindi questo ha fatto sì che la banca fosse tenuta a effettuare solo una valutazione di appropriatezza e quindi una valutazione di conformità rispetto alla sua pregressa esperienza. La signora ha dimostrato in causa che l'unico investimento che aveva fatto era in fondi obbligazionari, quindi un grado di rischio sicuramente inferiore rispetto a un investimento azionario, e è qui che il giudice le ha dato ragione, cioè il giudice ha detto che la banca non avrebbe verificato la conformità dell'investimento rispetto a questa valutazione di appropriatezza, e quindi ha ritenuto l'obbligo per la signora di ottenere il risarcimento del danno provocato da questo inadempimento. Dov'è che la sentenza si spinge in maniera, mi sento di dire, un po' ambiziosa, e qui sicuramente io credo che la banca dovrà per forza fare appello? Nel questionario finanziario la signora aveva dichiarato di conoscere la tipologia di investimento in azioni, quindi aveva dichiarato di conoscere l'azione come tipologia di strumento di investimento. Questo avrebbe potuto portare la banca anche a dire che l'investimento in azioni di Banca Popolare di Vicenza fosse adeguato, perché la signora conosceva l'investimento azionario e quindi anche le implicazioni e i rischi che questo si porta dietro. La sentenza si spinge però a dire che, trattandosi di titoli illiquidi, cioè non negoziati in un mercato regolamentato, quindi non facilmente smobilizzabili, traducibili in denaro per intenderci, perché lo statuto della banca non obbligava ovviamente la banca a riacquistare le azioni, e per poterle vendere era quindi necessario che l'investitore trovasse un altro aspirante socio di gradimento della banca, quindi tutto ciò rendeva scarsamente smobilizzabile il titolo. Il giudice ha detto, trattandosi di azioni illiquide, quindi non negoziate in mercati regolamentati, questo le avvicina più a uno strumento di tipo derivato, e quindi il fatto che la signora abbia dichiarato in passato di conoscere le azioni per me non è sufficiente. La banca avrebbe dovuto dire, segnalare alla signora l'inappropriatezza dell'investimento. E in quanto tale, attenzione che questa è una sentenza che rischia, per questo principio sui titoli liquidi, di riguardare insomma 1.300.000, 1.400.000 azionisti con titoli liquidi del settore bancario italiano. Questa è l'ordine di grandezza, per capirci. Spero che, secondo me è stato chiarissimo l'avvocato Cecchinato. Sentiamo Saverio che ci ha chiamato dalla provincia di Firenze. Prego Saverio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì. Io ho un pacchetto minimo. Di Vicenza o di Veneto? Vicenza. Sì. Ha accolto l'invito al ristoro o no? No, non ho accolto l'invito e mi sono rivolto alla Adusbef sezione di Prato, perché a me, come ad altri miei conoscenti, colleghi, amici, è stato venduto il pacchetto minimo in occasione della richiesta di un mutuo, immobiliare o per altro. Cioè, dicendoci che se fossimo diventati soci avremmo avuto più condizioni migliori, avremmo avuto Vendita, la vendita baciata, se vuole saperne una prezione della consistenza, legga il libro, come l'ho detto, di Andrea Greco e Franco Vanni, perché c'è su questo un capitolo intero sulle vendite baciate nei due istituti. Mi dispiace per Mario da Livorno, avete sentito la sigla che il tempo incalza. Grazie a Piero Cecchinato e Maurizio Crema, coltivato su Radio 24 con Focus Economia, dopo Sebastiano Barisoni, e appuntamento con Alessandro Mina domani alle 8:20. Attenti a noi due.